ad alta voce. Ignazio Oliva legge L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf. Traduzione di Ada Maria Terziani. Il primo ottobre. Il primo ottobre gli anni scrolica rimase sdraiata a letto tutto vestito l'intero pomeriggio rivolto verso il muro, che non fu possibile cavargli una parola di bocca. La mattina era sceso insieme a Katrina giù al pontile per andare incontro alla ragazzina. Non che avesse scritto che sarebbe tornata, no davvero, ma Jan aveva dato per scontato che doveva avvenire così. Era il primo ottobre il termine per pagare il debito a Lars Gunnarsson e quel giorno Clara Gulla doveva arrivare portando il denaro. Che tornasse a casa prima, Jan non se l'era mai aspettato. Clara Gulla aveva certo bisogno di fermarsi a Stoccolma il più a lungo possibile per guadagnare una simile somma. Ma che dovesse tardare di più, non poteva crederlo. Perché, anche se non se ne era deciso di prestare il denaro, non aveva comunque più nessun motivo per star lontana una volta passato il primo di ottobre. Mentre stava sul pontile ad aspettare, Jan si immaginava come si sarebbe svolta la scena. Al vederli dal battello, la ragazzina avrebbe preso un'aria desolata e appena scesa a terra avrebbe confessato di non essere riuscita a mettere insieme tutto quel denaro. Jan e Katrin avrebbero fatto finta di prenderla in parola e Jan le avrebbe risposto che non poteva capire come osasse tornare quando sapeva bene che a lui e Katrin non importava altro che il denaro. Ed ecco che prima della fine del pontile lei tirava fuori dalla tasca del vestito il voluminoso portafogli e lo metteva nelle loro mani. Allora lui lasciava che Katrin prendesse i suoi biglietti e li contasse. Mentre da parte sua non avrebbe fatto che stare a guardare Clara Gulla. Lei certo si sarebbe accorta che al padre non importava nient'altro che il suo ritorno, e gli avrebbe detto che era ancora matto come quando era partita. Così Jan si era sognato il primo incontro. Ma il sogno non si era avverato. Quel giorno non avevano dovuto aspettare a lungo sul pontile Katrina e lui. Il battello era arrivato in orario. Ma era così sovraccarico di merci e di gente diretta al mercato di Bröby quando era approdato, che in un primo momento era impossibile sapere se Clara Gulla si trovasse o no a bordo. Jan si era aspettato di vederla balzare per prima la passarella, e invece sbarcarono soltanto alcuni uomini. E poiché Clara Gulla non compariva, tentò anche di avere informazioni a bordo, ma non riuscì a farsi largo tra la folla. Ad ogni modo era così sicuro che c'era, che quando cominciarono a ritirare la passarella gridò al capitano di aspettare assolutamente a ripartire col battello, doveva esserci ancora qualcuno che doveva scendere a terra. Il capitano interrogò i marinai, ma quelli risposero che i passeggeri per Svarzio erano tutti sbarcati e il battello ripartì. Erano tornati a casa soli, lui e Katrina, e appena arrivato Jan si era gettato sul letto. Era così stanco e sfinito da non poter neanche immaginare che avrebbe mai trovato la forza di rialzarsi. Gli abitanti della Skedalar li avevano visti ritornare dal pontile senza Clara Gulla e morivano dalla voglia di sapere che cosa sarebbe successo ora. Con svariati pretesti, tutti i vicini arrivarono uno dopo l'altro a Skrolica per informarsi di come stessero le cose. Era vero che Clara Gulla non era sul battello? Era vero che non avevano avuto né lettere né messaggi da lei in tutto il mese di settembre? Jan non rispondeva una parola a tutte quelle domande. Restava a letto, senza muoversi, chiunque entrasse. Katrina fu costretta, bene o male, a dare delle spiegazioni. Che Jan fosse in quelle condizioni perché prostrato all'idea di perdere la casetta. Lo credessero pure. A lui non importava niente. Sua moglie piangeva, si lamentava. I vicini una volta entrati pensavano di doversi trattenere un po' per mostrare la loro compassione, anche per dirle qualche parola di consolazione. Non era davvero possibile che Lars Gunnarsson volesse portar via loro la casetta. La vecchia padrona di Falla non l'avrebbe permesso. Era sempre stata una persona giusta e leale, lei. E poi il giorno non era finito. Clara Gulla poteva ancora farsi viva prima che fosse troppo tardi. Certo, non era così facile che fosse riuscita a guadagnare 200 scudi in appena 3 mesi. Ma aveva sempre una così incredibile fortuna la ragazza. E stavano lì, a valutare tutti i pro e i contro. Katrina ricordò loro che le prime settimane Clara Gulla non aveva potuto guadagnare niente. Alloggiava presso una famiglia di Svarzio che si era trasferita a Stoccolma, ma aveva dovuto rimborsare le spese. Poi però aveva avuto la fortuna di incontrare per strada quel commerciante che le aveva regalato il vestito rosso, ed era stato lui ad aiutarla a trovare un posto. E non poteva averle procurato anche il denaro? Non era poi così impossibile. No, non era così impossibile, rispondeva Katrina. Ma visto che non era tornata e non aveva mandato lettere, era segno che non ce l'aveva fatta. Tutti quelli che si trovavano nella casetta si sentivano sempre più ansiosi e inquieti man mano che i minuti passavano. Avevano il presentimento che qualcosa di terribile stesse per accadere ai due vecchi che abitavano lì. L'apprensione era ormai al colmo quando la porta si aprì ancora una volta ed entrò un uomo che quasi sicuramente non era mai stato visto prima nella Skedalar, perché non erano posti così fuori dal mondo che usasse a frequentare. Al suo ingresso nella stanza si fece lo stesso immobile silenzio che vi è in una foresta in una notte d'inverno. E gli occhi di tutti si fissarono su di lui, tranne quelli di Jan, che non si mosse. Sebbene Katrina gli sussurrasse che il deputato Carl Carlson di Strøvik era venuto da loro. Il deputato aveva in mano una carta arrotolata, e tutti non ebbero dubbi che era stato inviato dal nuovo proprietario di Falla per notificare all'agente di Skrolika quel che gli aspettava, dal momento che non potevano pagargli il loro debito. Molti erano gli sguardi preoccupati rivolti verso Carl Carlson, ma il deputato aveva la sua solita aria autorevole, ed era impossibile indovinare in che modo sarebbe caduto il duro colpo che era venuto a portare. Il deputato tese la mano innanzitutto a Katrina, e poi agli altri. Si alzarono e salutarono uno per volta ciascuno al suo turno. L'unico che non si mosse fu Jan. «Io non sono pratico di questa zona», cominciò il deputato. «Ma questa è la località degli Askedalar chiamata Skrolika, non è vero?» «Sì, era proprio quella». Annuirono tutti, ma nessuno dei presenti fu in grado di proferire una parola udibile. Si meravigliarono anzi che Katrin avesse ancora la presenza di spirito di dare una gomitata a Borje per farlo alzare e cedere il suo posto al deputato. Questi accostò la sedia al tavolo e per prima cosa vi depose il rotolo di carta. Quindi tirò fuori la tabacchiera e la mise vicino al rotolo. Poi fu il turno degli occhiali, che estrasse dall'astuccio e pulì con un fazzoletto a quadri azzurri. Compiuti tutti questi preparativi, il deputato volse ancora una volta lo sguardo intorno, dall'uno all'altro. I presenti erano tale gentucola che non era neppure sicuro dei loro nomi. «Dovrei parlare con Jan Andersson di Skrolika», disse. «È quello sdraiato, là in fondo», rispose una delle reti, indicando il letto. «È malato?» chiese il deputato. «No, no», risposero molte voci insieme. «E non è nemmeno ubriaco», aggiunse Börje. «E neppure dorme», fece Ula. «Ha camminato tanto oggi, ma così tanto che è stanco», spiegò Katrina. Le sembrava fosse meglio mettere la cosa in questo modo. E intanto si chinò sul marito cercando di convincerlo ad alzarsi. Ma Jan rimase immobile. «Non capisce quello che dico?» chiese il deputato. «Ma sì che lo capisce», assicurarono tutti quelli intorno. «Forse non si aspetta buone notizie dal momento che è il deputato Carl Carlson di Strøvik che viene a trovarlo», disse una delle reti. Il deputato volse il capo e lo guardò con i suoi occhietti iniettati di sangue. «Ol Bengstad di Lysterby non ha certo sempre avuto così paura di incontrare Carl Carlson», disse il deputato. Quindi si girò di nuovo verso il tavolo e cominciò a leggere la lettera. Erano tutti fuori di sé dallo stupore. Aveva parlato in tono amichevole, anzi, si sarebbe quasi detto che avesse increspato le labbra in un sorriso. «Si tratta di questo», disse il deputato. «Qualche giorno fa ho ricevuto una lettera da una certa Clara Fina Gulleborg, figlia di Jan di Skrolika. In questa lettera spiega di essere partita da casa per guadagnare 200 scudi che i suoi genitori devono pagare a Lars Gunnarsson di Falla il 1 ottobre, per avere il diritto di proprietà sul terreno dove è costruita la loro casetta». Quindi fece una pausa, perché gli ascoltatori potessero seguir meglio il suo racconto. «E ora mi manda il denaro», proseguì il deputato, «e mi prega di recarmi nella Skedalar a sistemare la faccenda secondo le regole col nuovo proprietario di Falla, in modo che non possano più saltar fuori nuovi inghippi in seguito. È una ragazza intelligente questa», aggiunse ripiegando la lettera. «Si rivolge a me fin dal principio. Se ti faccio dei problemi, le cose andrebbero meglio in questo comune». Prima che avesse finito di parlare, Jan si era seduto sul bordo del letto. «Ma la ragazza allora dove sta?» E ora dovrei chiedere se i genitori sono d'accordo con la figlia e mi danno l'incarico di concludere. Ma la ragazza, interruppe ancora Jan, dove sta? Dove sta? Disse il deputato, riprendendo la lettera. Dice che non le è stato possibile guadagnare tutto quel denaro in così pochi mesi, ma ha trovato un posto presso una buona signora che le ha accordato un anticipo e da lei deve rimanere finché non si sia sdebitata. Non torna a casa allora? Chiese Jan. No, non per il momento, a quanto posso capire, rispose il deputato. Jan si coricò nel letto e si voltò verso il muro come prima. Che gli importava della casa e di tutto il resto? Che gli importava di vivere dal momento che la ragazzina non tornava? Il sogno incomincia. Nelle prime settimane, dopo la visita del deputato, Jan non riusciva più a far nulla. Rimaneva tutto il giorno a letto, a disperarsi. Ogni mattina si alzava e si vestiva con l'intenzione di andare al lavoro, a falla. Ma prima ancora di arrivare alla porta, si sentiva così mortalmente stanco e privo di forze da non poter far altro che coricarsi di nuovo. Katrina cercava di essere paziente con lui, perché sapeva bene che lo struggimento è come tutte le altre malattie. Deve avere il suo decorso prima di passare. Ma si domandava quanto tempo ci sarebbe voluto prima che una nostalgia come quella che Jan sentiva per Clara Gulla potesse calmarsi. Sarebbe rimasta a letto in quel modo fino a Natale? O forse tutto l'inverno? Ed è certo quel che sarebbe accaduto se il vecchio Ula delle reti non fosse arrivato una sera a Scrolica per avere loro notizie e non si fosse fermata a prendere il caffè. Ula era un tipo taciturno di natura, come chi ha i pensieri che vagano lontani e non segue molto quello che gli accade intorno. Ma dopo che gli fu servito il caffè nella tazza e l'ebbe versato nel piattino per farlo raffreddare, gli sembrò proprio di dover dire qualcosa. «Oggi penso che arriverà una lettera di Clara Gulla», disse. «Me lo sento». «Abbiamo avuto i suoi saluti 15 giorni fa nella lettera al deputato», rispose Katrina. Ula soffiò un paio di volte sul caffè prima di aggiungere altro. Poi gli parve di nuovo opportuno riempire il lungo silenzio con qualche parola. «Potrebbe esserle capitato qualcosa di bello, qualcosa che l'ha spinta a scrivere». «Che cosa può esserle capitato di bello?» obiettò Katrina. «Quando uno sta a sgobbare a servizio, un giorno è uguale all'altro». Il vecchio rosicchiò un pezzo di zucchero trangugiando il suo caffè a grandi sorsi. Quando ebbe finito, si fece nella stanza un tale silenzio che ne fu quasi spaventato. «Potrebbe esserle capitato di incontrare per strada una persona?» buttò lì, guardando indolentemente nel vuoto con i suoi occhi spenti. Si sarebbe a senso detto che sapesse quel che diceva. A Katrina sembrò inutile rispondere. Gli riempì di nuovo la tazza, senza dir niente. «Potrebbe esserle capitato di incontrare una vecchia signora che facesse fatica a camminare e che cadesse proprio quando passava Clara Gulla», proseguì Ula con la stessa aria assente. «E questa sarebbe una cosa da scrivere?» commentò Katrina, quasi seccata della sua ostinazione. «Già. Ma pensate un po' se Clara Gulla si fosse fermata per aiutarla ad alzarsi e la vecchia signora fosse stata così contenta dell'aiuto da tirar fuori lì per lì il portafogli e dare alla ragazza un biglietto da 10 scudi. Sarebbe ben qualcosa che vale la pena di raccontare». «Lo sarebbe di certo», disse Katrina con un tono di impazienza, «se fosse vero. Ma voi state soltanto fantasticando». «È bello far banchetti nella fantasia», si giustificò Ula. «Hanno un sapore migliore di quelli reali». «Già. Perché avete provato sia gli uni che gli altri voi», disse Katrina. Poco dopo, Ula delle reti si congedò, e dopo la sua partenza Katrina non sfiorò neanche più col pensiero tutta quella storia. Quanto a Jan, da prima la prese anche lui per una chiacchiera di poco conto. Ma mentre se ne stava lì a letto, senza far niente, cominciò a domandarsi se sotto quelle parole non ci fosse qualche intenzione nascosta. Non aveva un tono bizzarro Ula quando parlava della lettera. Avrebbe potuto star lì a mettere insieme una così lunga sfilza di parole tanto per dire qualcosa? Che avesse qualche notizia. O magari aveva ricevuto una lettera da Clara Gulla. In fondo, poteva anche essere che le fosse capitata una fortuna così grande da non osare mandare direttamente la notizia ai genitori. Forse aveva scritto al vecchio delle reti pregandolo di prepararli. Ecco, era questo che Ula aveva cercato di fare stasera, anche se loro non l'avevano per niente capito. «Domani ritorna», pensò Jan, «e così sentiremo tutta la verità». Ma comunque fosse, Ula non ritornò né il giorno dopo né quello seguente. Il terzo giorno l'ansia divenne così insostenibile che Jan si alzò e andò dal vicino per sapere se c'era stata qualche intenzione nelle sue parole. Il vecchio sedeva solo e lavorava una vecchia rete che gli avevano dato da riparare. Si rallegrò alla venuta di Jan. Aveva avuto un tale attacco di gotta, disse, che non era potuto uscire di casa negli ultimi giorni. Jan non volle chiedergli di punto in bianco se avesse ricevuto posta da Clara Gulla. Pensava di poter raggiungere più direttamente allo scopo procedendo per la stessa via intrapresa dall'altro. «Ho riflettuto a quello che avete raccontato di Clara Gulla l'ultima volta che siete stato da noi», disse. Il vecchio levò lo sguardo dal lavoro. Ci volle un po' prima che capisse a che cosa alludeva Jan. «È stata soltanto una piccola trovata da parte mia», rispose. Jan gli si avvicinò. «Però faceva un gran piacere sentirla. Avreste forse detto di più se Katrina non fosse stata così diffidente?» «Già», fece Ula. «È il genere di divertimenti che ci si può concedere qui, nelle nostre valli». «Ho pensato», disse Jan, rinfrancato da quell'approvazione, «che forse la storia non finiva con la vecchia signora che dava a Clara Gulla il biglietto da 10 scudi. Magari l'ha poi invitata ad andarla a trovare». «Può essere benissimo», disse Ula. «E forse era così ricca da possedere un intero palazzo tutto di pietra», propose Jan. «Non l'hai mica pensata male, Jan», le elogiò il vecchio. «E chissà che la ricca signora non paghi il debito di Clara Gulla», cominciò Jan, ma qui si interruppe, perché la nuora del vecchio entrava nella casetta, e lui non voleva iniziarla al segreto. «Così siete uscito oggi, Jan?» chiese la donna. «Vuol dire che per fortuna state meglio. Di questo devo ringraziare il mio caro Old Bengtsa», rispose Jan con un tono misterioso. «È lui che mi ha guarito». E subito dopo salutò e se ne andò. Il vecchio rimase a lungo a seguirlo con lo sguardo. «Non so che cosa possa intendere dicendo che l'ho guarito, Lisa», disse. «Non vorrei che stesse per...» I tesori ereditari. Una sera, ad autunno inoltrato, Jan era sulla strada del ritorno da Falla, dove era stata a trebbiare tutto il giorno. Aveva ritrovato la voglia di lavorare da quando aveva avuto quel dialogo col vecchio delle reti. Gli pareva di dover fare del suo meglio per tenersi su. La ragazzina non doveva al suo ritorno essere accolta dalla vergogna di trovare i suoi genitori caduti nella miseria e mantenuti a spese pubbliche. Quando Jan fu abbastanza lontano da non poter più essere visto dalle finestre della fattoria, scorse una donna che gli veniva incontro sulla strada. Era già buio, ma Jan riconobbe immediatamente la padrona, non la nuova padrona che aveva sposato Lars Gunnarsson, ma la vecchia, la vera padrona di Falla. Era avvolta in un grande scialle che arrivava all'orlo della gonna. Jan non l'aveva mai vista vestita così e si domandò se fosse malata. Aveva proprio una cattiva cera negli ultimi tempi. Quando Eric di Falla era morto la primavera scorsa, non aveva un solo capello bianco. E ora, 6 mesi dopo, non pensava neanche che gliene fosse rimasto ancora uno nero. La padrona di Falla si fermò a guardarlo e poi stavano lì a chiacchierare. Lei non disse nulla che lasciasse intendere che era uscita apposta per aspettare Jan, ma dentro di sé egli sentiva che era così. Gli era venuto in mente che forse valeva la pena parlare con lui di Clara Gulla, e provò un vero disappunto quando incominciò con tutt'altro. «Sentite, Jan», disse, «vi ricordate il vecchio proprietario di Falla, mio padre, che era padrone della fattoria prima che vi giungesse Eric?» «Come potrei non ricordarlo», rispose Jan. «Avevo almeno 12 anni quando morì. Ebbe un buon genero lui», disse la vecchia padrona. «Sì, lo ebbe davvero», confermò Jan. La padrona di Falla tacque un momento e si lasciò sfuggire qualche sospiro prima di riprendere. «Dovrei chiedervi consiglio su una cosa, Jan. Voi non siete il tipo da andare a spifferare quel che dico a sinistra e a destra. No, sono capace di tacere. Già, mi sembra di essermene accorta quest'anno». Una nuova speranza si accese in Jan. Non sarebbe stato poi così assurdo che Clara Gulla si fosse rivolta alla padrona di Falla pregandola di parlare ai genitori della grande fortuna che le era capitata. Il vecchio Ula si era ammalato di gotta poco dopo quel dialogo che la nuora aveva interrotto, ed era così finito che Jan non aveva più potuto scambiar parola con lui per diverse settimane. Adesso era di nuovo in piedi, ma sempre molto fiacco, e quel che era peggio, sembrava aver perduto la memoria dopo la malattia. Jan si era aspettato che rivelasse di sua iniziativa qualcosa della lettera di Clara Gulla. Ma poiché non lo faceva, e neppure capiva certe allusioni, l'aveva direttamente interrogato. Ed ecco che il vecchio si era messo a sostenere di non aver ricevuto nessuna lettera. Aveva persino tirato fuori il cassetto del tavolo e sollevato il coperchio della cassa dei vestiti per mostrare a Jan che non c'era proprio nessuna lettera. Chiaramente aveva dimenticato quel che ne aveva fatto. Non c'era da meravigliarsi se la ragazzina si era rivolta adesso alla padrona di Falla. Era un peccato che non ci avesse pensato fin dal primo momento. La padrona di Falla era rimasta a lungo silenziosa e incerta, e Jan era arrivato a essere così sicuro del fatto che ebbe molta difficoltà a seguirla quando riprese a parlare di suo padre. Quando papà fu agli estremi, chiamò dal suo letto Eric e lo ringraziò per essersi comportato così bene verso di lui, benché per molti anni fosse rimasto senza forze e non avesse potuto far niente di utile. «Non pensate a questo, padre», disse Eric. «Finché volete restare con noi, siamo contenti di potervi tenere». Già disse così, e lo pensava anche. «Ah, sì, certo che lo pensava», assentì Jan. «Non c'era nessuna furbizia in Eric. Aspettate, Jan», continuò la padrona di Falla. «Per il momento dobbiamo ancora parlare di Eric. Vi ricordate il lungo bastone dal pomo d'argento che mio padre era solito portare?» «Sì, e anche quel berretto alto che si metteva quando andava in chiesa. Ah, vi ricordate anche il berretto? Sapete che cosa fece papà quando stava per morire? Ecco, mi mandò a prendere bastone e berretto, e li diede ad Eric. «Ti avrei potuto dare qualche oggetto di maggior valore», aveva detto, «ma ti do queste cose, perché è un onore più grande per te ricevere quello che tutti sanno e riconoscono che gli ho portato. Sarà una testimonianza in tuo favore». Lo era davvero, ed era anche ben meritata. Mentre diceva queste parole, Jan si accorse che la padrona di Falla serrava lo scialle. Decisamente teneva qualcosa nascosto lì sotto. Poteva ben essere un invio di Clara Gulla. Sì, ci sarebbe certo arrivata quando fosse il momento. Quel discorso sul padre e sull'ascito era soltanto un passaggio. «Ho parlato di questo molte volte ai figli, e anche a Lars Gunnarsson», proseguì la padrona di Falla. «E la primavera scorsa, quando Eric giaceva ammalato, credo che tanto lui che Anna si aspettassero che Lars venisse chiamato a suo letto, come una volta era toccato a Eric. Io avevo tirato fuori gli oggetti, in modo che li avesse a portata di mano, se voleva darli a Lars. Ma il pensiero non lo sfiorò nemmeno». Alla padrona di Falla tremò le voci. Quando gli venne a parlare, aveva un tono ansioso ed esitante. «Una volta che eravamo soli, gli chiesi che cosa voleva farne. E allora mi disse che potevo dargli a Lars, se volevo, dopo la sua morte. Lui non aveva la forza di tenere discorsi», mi disse. Qui la padrona di Falla aprì il grande scialle. Ed ecco, Jan vide che là sotto teneva un bastone più lungo del comune, con un grosso pomo d'argento e un berretto di pelle rigido a fascia alta. «Ci sono parole che pesa troppo pronunciare», continuò con tono grave. «Rispondetemi soltanto con un segno, se volete, Jan. Posso dare queste cose a Lars Gunnarsson?» Jan fece un passo indietro. Era una questione da cui si sentiva lontanissimo. Gli sembrava che fosse passato tanto tempo dalla morte di Eric di Falla da ricordarsi appena com'era avvenuta. «Capite, Jan? Io non voglio sapere che questo. Se Lars può ricevere il bastone e il berretto con lo stesso diritto di Eric. E voi questo lo sapete bene, voi che eravate con lui nel bosco. Sarebbe un sollievo per me se sapessi di poterglieli dare. Credo che la mia vita sarebbe meno difficile a casa, con i giovani». La voce le mancò ancora una volta, e Jan cominciò a capire perché era diventata così vecchia. Quanto a lui, era talmente perso da altri pensieri ora da non ricordare più l'idea di vendetta contro il suo padrone. «È meglio essere pacifici e concilianti», rispose. «Si arriva più lontano». La vecchia trasse un profondo respiro. «Dunque dite così? Allora è proprio come credevo». Si raddrizzò al punto da apparire tremendamente alta. «Non vi domando com'è successo. È meglio per me non sapere nulla, ma una cosa è certa. Che Lars Gunnarsson non avrà il bastone di mio padre in mano sua». Si era già voltata per andarsene quando si fermò di colpo. «Sentite, Jan», disse, «potete prendere voi il bastone e il berretto. Voglio che siano in mani buone e fedeli. Non oso riportarli a casa. Potrei venir costretta a dargli a Lars. Prendeteli voi, come ricordo del vecchio padrone, che vi volle sempre bene». Se ne andò, alta e fiera, e Jan rimase lì, tenendo in mano bastone e berretto. Capiva malapena che cosa era accaduto. Un così grande onore mai se lo sarebbe aspettato. Quei tesori ereditari sarebbero adesso sua proprietà. Ma ad un tratto trovò la spiegazione. Era Clara Gulla che stava dietro a tutto, la padrona di Falla sapeva che egli presto era destinato a salire tanto in alto che niente era troppo pregevole per lui. Sì, sì, se il bastone fosse stato d'argento e il berretto d'oro, forse sarebbero stati ancor più adatti al padre di Clara Gulla. Ignazio Oliva ha letto L'imperatore di Portugallia di Selma Lagerlöf, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, ad alta voce @rai.it.